il curato Dars direttore di coscienza, la sapienza delle sue decisioni. Sul modo di Don Vianney di guidare le anime pie e già avanzate nella perfezione si potrebbero scrivere molte pagine interessanti. È vero che si cita il caso di persone che egli non volle ascoltare in confessione, sapendole in grazia di Dio. Una mia zia religiosa marista, dice Don Rogemont, venne ad Ars accompagnata dalla sua superiora per chiedere consiglio a Don Vianney circa un affare che interessava la loro comunità. E prima ancora che quelle manifestassero lo scopo della loro visita, egli indicò con parola sicura la via da seguire. Quando poi domandarono che ascoltasse la loro confessione, con semplicità rispose: «Non ne avete bisogno, lasciate ad altri il tempo che dovrei dedicarvi». Nel gennaio 1853 giungeva ad Ars, accompagnando lo zio che era arcivescovo e cardinale di Malines, la giovane Clara Deschamps. Ella, appena ebbe fatto il segno di croce per iniziare la sua confessione, si sentì dire: «Sì, figlia mia, entrate nella comunità del Sacro Cuore, alla quale siete chiamata. Comunicatevi senza assoluzione». Ma questi erano fatti eccezionali e Don Vianney aveva i suoi buoni motivi per comportarsi in tal modo. A tutti gli altri penitenti ha dato il tempo necessario, anche ai bambini, per i quali si mostrava oltremodo accondiscendente e paterno. I due fratelli Lehmann, convertiti dal giudaismo, hanno affermato che, confessandoli nella loro giovinezza, egli permetteva che nascondessero il loro capo nei suoi lunghi capelli bianchi, ed essi erano felici di gustare così l'influsso di un santo. Per quanto egli fosse sempre a corto di tempo, non incontrò mai un ignorante senza istruirlo, né un'anima giusta senza incoraggiarla e indirizzarla verso la perfezione. Dalla santità della sua vita, ormai da tutti riconosciuta, e dalla sapienza soprannaturale che si leggeva nelle sue decisioni, nasceva nelle anime pie una confidenza senza riserva. «Nel mio ministero ad Ars, come vicario», ha detto Don Claudio Rougemont, «ho trovato innumerevoli persone che ritenevano Don Vianney come direttore incomparabile e divinamente ispirato». Al tribunale di penitenza ed in pulpito, dice Cristina Sibens, egli era per me la legge ed i profeti. Generalmente le sue decisioni erano precise e pronte. Levava gli occhi al cielo e dava la sua risposta senza esitazione. Ma i casi a lui sottoposti erano così vari e così difficili che qualche volta domandò il tempo di riflettere ed anche di chiedere i lumi di qualche suo confratello. Così, afferma Don Dufour, missionario di Portain, quantunque fosse allora giovane sacerdote, Don Vianney ebbe un giorno l'umiltà di chiedergli il suo parere su un caso di restituzione che gli doveva decidere. Qualche penitente, venuto con l'idea di vedere qualche cosa di straordinario, partì disilluso, perché le sue parole rimanevano sempre circospette e sapienti. Svelava i motivi segreti, coscienti o meno, di certi desideri o di certi sogni ed indicava alle anime il cammino da compiere. A qualche giovane che anelava al chiostro, egli consigliò di cercarsi un posto nel mondo. Ad altri, che si credeva chiamato al matrimonio, egli scoprì orizzonti più alti. Ma era così prudente che si asteneva dal dare il suo consiglio quando sapeva che qualche altro lo poteva fare con maggiore autorità. Così, ad una signora di Grenoble che gli domandava se poteva aprire un albergo per provvedersi di mezzi necessari all'educazione dei suoi figlioli, consigliò di rivolgersi al sacerdote della sua parrocchia. La giovane Luigia Martin di Saint-Rambert nell'Aisne, di natura allegra e vivace e di cuore generoso, verso i 18 anni si era sentita chiamata alla vita religiosa. I parenti la trattavano come una piccola folle. Un giorno, recatasi al convento della Visitazione di Montreuil per incontrare alcune sue cugine che erano là in pensione, appena vide la grata del convento esclamò: «Certo, io non vorrei vivere là dentro». Ma dopo un po' di tempo sentì nascere in sé nuovi dubbi e si chiese se il Signore non la chiamasse ad un convento di clausura. In questa incertezza, accompagnata dalla nonna, alla quale aveva svelato le sue lotte intime, intraprese il viaggio per Ars all'insaputa dei genitori. Dopo una lunga attesa, era giunto finalmente il tempo di entrare nel confessionale. Ma proprio in quel momento Don Vianney uscì e passò in sagrestia per presiedere ad una processione. La pia giovane lo seguì. «Signor curato, vorrei fare la comunione alla vostra messa e non sono confessata». In quel momento la folla riempiva la chiesa fino alla sagrestia, così che era difficile chiudere la porta. «Avete amor proprio?» domandò il santo alla giovane sorridendo. «No, padre mio». «Ebbene, mettetevi in ginocchio e confessatevi». E la giovane si confessò narrando le sue angosce. Finita la confessione, sentì questo invito. «Figlia mia, la vostra vocazione viene dal cielo. Entrate subito alla visitazione». I parenti non opposero più resistenza e la giovane poté entrare in un convento col nome di Suor Maria Anastasia e offrire a Dio la sua natura ardente. Verso il 1836 giungevano ad Ars il signor Millet di Mâcon e sua moglie. Avevano speranza di potersi intrattenere col servo di Dio ed ottenere almeno un colloquio, sia pure breve, con lui. La loro figlia Luisa, invece, quantunque pia, non aveva voluto acconsentire ad avvicinare Don Vianney. Dopo 8 giorni i pellegrini erano entrati in chiesa per l'ultima volta, prima di lasciare il villaggio. In quel momento il santo passava alla sagrestia. Illuminato da soprannaturale intuizione, girò sulla folla uno sguardo penetrante e tese il suo breviario nella direzione di Luisa, la quale, non potendo più nascondersi né tantomeno resistere, avanzò nel varco spontaneamente lasciato libero dai fedeli. Il santo la chiamava al confessionale. La giovane si inginocchiò e, dopo una breve sosta, sentì dal curato queste parole che dovevano imprimere un nuovo indirizzo alla sua vita. «Figlia mia, voi sarete religiosa alla visitazione. È Dio che lo vuole». La penitente osò una protesta, senza esito. Il santo ripeté ancora una volta: «Figlia mia, questa è la volontà di Dio». Sembrava si opponessero difficoltà insormontabili, ma presto furono superate e Luisa poté prendere il velo libera da ogni legame terreno. Nel luglio 1856 giungeva ad Ars, condotta da una zia, una giovane di Troyes, che sarebbe poi diventata Suor Maria Metilde presso le Orsoline di Avignone. «Al momento della mia partenza», ha raccontato lei stessa nel 1916, «trovai un'amica che mi fece questa confidenza. Sono contenta che andiate ad Ars. Là il santo curato vi dirà la vostra vocazione, come a me disse la mia». Fui presentata a lui con queste parole: «Signor curato, è una piccola sapiente che vi conduco». «Tanto peggio», rispose, «tutto questo non vale un atto di amore verso Dio». «Ma padre», riprese la zia, «che cosa diventerà questa fanciulla?» Allora il santo mi fissò con un lungo sguardo col quale sembrava leggere nella mia anima e disse: «Una religiosa». Allora, pensando che avrei dovuto lasciare mia madre, mio padre ed i miei cari studi, risposi con vivacità: «No, no, mai, no, no». Ed egli, sorridendo di buon cuore a questi no ripetuti, esclamò a sua volta: «Sì, sì, sì». Lo seguì allora nel confessionale. Fino a quell'istante non avevo pensato che ad ottenere diplomi, ma egli cambiò il mio cuore. Feci la professione 3 anni più tardi, l'anno della sua morte. Ora sono religiosa da 58 anni. In questo modo, con sovrana abilità, conduceva alla perfezione anime buone, ma deboli e turbate, che senza di lui non si sarebbero mai offerte completamente a Dio. Nella sua abilità a discernere le vere vocazioni, sapeva però far dissipare in altre anime, pur generose, i sogni di una perfezione illusoria. Don Dufour, missionario di Ponden, ha detto: «Ho visto un colonnello in uniforme che gli serviva la messa e lo accompagnava con un cero mentre distribuiva la comunione. Dopo la funzione, egli domandò al santo se, libero dagli impegni del matrimonio, non dovesse farsi religioso. «Guardatevene bene», rispose il servo di Dio, «l'armata ha bisogno di esempi come quelli che voi sapete dare». Un sacerdote inginocchiato ai suoi piedi gli chiedeva: «Padre, debbo coltivare in me il desiderio della vita religiosa che sento in modo vivo da più 20 anni, cioè dal 2° anno di teologia?» «Sì, amico mio, questo pensiero viene da Dio e voi dovete coltivarlo.» «Allora, padre, mi permetterete di lasciare il posto che occupo» — era professore in un seminario minore — «e di partire per il convento? Cosa mi potete suggerire?» «Non subito, amico mio, rimanete dove siete. Il Signore qualche volta pone in cuore dei desideri dei quali non domanderà mai il compimento in questo mondo.» E spiegandosi meglio, fece intendere al giovane sacerdote educatore che le sue aspirazioni alla vita monastica erano precisamente di questo genere e che, coltivate con cura nel suo cuore, avrebbero servito a preservarlo dai pericoli del mondo e come stimolo alle virtù sacerdotali. Lo stesso ecclesiastico, 3 anni più tardi, ancora tormentato dal desiderio del convento, ritornava alla carica, forse approfittando del fatto che era stato trasferito dal seminario ad un collegio cattolico. «Ed ora che mi trovo al nuovo posto, che cosa mi consigliate?» E il santo rispose sorridendo: «Ancora la medesima cosa», ed aggiunse con tono grave: «Quanto a voi, non siate mai parroco. La più bella opera che si possa fare nel secolo presente è di attendere all'educazione cristiana della gioventù. Guida nelle preghiere e nell'adempimento dei propri doveri.» Molte persone domandarono a Don Vianney che le aiutasse nella scelta delle loro preghiere, ed egli, nemico di quelle devozioncelle nelle quali tante persone si smarriscono in una pietà sterile, aiutando l'egoismo anche se occulto, suggeriva prima di tutto le pratiche appropriate o raccomandate dalla Chiesa, come il rosario, l'Angelus, le giaculatorie e soprattutto l'assistenza alla messa e alle funzioni liturgiche pubbliche. Preferì sempre la preghiera pubblica alla preghiera privata, manifestandone la ragione recondita in queste parole: «La preghiera privata è come la paglia qua e là dispersa nel campo che, se viene accesa, si consuma presto con una fiamma di poco slancio. Riunite tutte queste paglie disperse e la fiamma si eleverà più gagliarda verso il cielo. Così è la preghiera pubblica.» Ad anime desiderose di maggiore perfezione, egli consigliava la meditazione quotidiana e dava le norme con le quali doveva essere fatta. A coloro che non potevano fare metodicamente la meditazione, consigliava la frequenza del pensiero di Dio durante la giornata. Martha Mihar, che in Ars aveva una bottega, dice: «Mi faceva osservare che avevo tante statue nella mia casa e che mi bastava guardare quelle per sapere che cosa dovevo dire nella preghiera. Se gli domandava consiglio per letture che avrebbero dovuto servire per il progresso nella vita spirituale, egli suggeriva il Vangelo, l'imitazione di Gesù Cristo e la vita dei santi.» Ma non si deve dimenticare che il prudente e saggio confessore prescrisse sempre e a tutte le anime, quale che fossero, il compimento delle azioni che erano di obbligo. «È impossibile», dice la baronessa di Belvei, «riferire quale fosse il suo tatto nel discernere per ognuno ciò che era dovere o semplicemente consigliato e condanna ciò che era frutto di amor proprio o ispirazione di gelo eccessivo. Non faceva che ripetere in confessionale quello che già aveva insegnato nei suoi sermoni. Si intende male la religione», diceva dal pulpito. «Mettete per esempio una persona che lavora alla giornata. Ha il pensiero di fare grandi penitenze e di passare buona parte della notte in preghiera, ma se è istruita dirà: non devo ordinare il mio tempo in questo modo perché così facendo domani non sarei in grado di compiere il mio dovere, avrei sonno ed anche la minima contrarietà mi farebbe perdere la pazienza. Mi sentirei meno efficiente tutto il giorno e farei la metà del lavoro che invece compio dopo aver dormito la notte. Una persona istruita ha sempre due guide, il consiglio e l'obbedienza.» Caterina Lassagne ha detto che Don Vianney non voleva che una madre di famiglia trascurasse la sua casa per andare in chiesa, quando non vi era obbligata, e che ella medesima ricevette all'inizio di una quaresima la proibizione di digiunare. «Ma, signor curato, voi digiunate.» «È vero, ma io, digiunando, posso ugualmente fare il mio lavoro, voi non potreste fare il vostro. Alle persone coniugate faceva conoscere la grandezza della loro vocazione, esortandole a compiere santamente il loro dovere. Una donna di Oru nel Ron, la signora Ruet, che aveva già una numerosa famiglia e che stava per diventare madre un'altra volta, si recò a invocare coraggio dal servo di Dio. Non dovette attendere molto perché il curato la chiamò presto in mezzo alla folla ed appena inginocchiata al confessionale le disse: «Siete molto triste, figlia mia, ma io sono già avanzata in età, padre. Consolatevi, figlia mia, se voi sapeste quante donne sono all'inferno per essersi opposte ai disegni di Dio a proposito dei figli». E ad una signora che gli confidava le sue pene e preoccupazioni a causa della numerosa famiglia, diceva: «Fatevi coraggio, figlia mia, e non spaventatevi del fardello addossato sulle vostre spalle. Nostro Signore lo porta con voi. Dio fa le cose bene, e quando ad una giovane madre dà molti figli, è segno che la giudica capace di allevarli bene. Da parte sua è un segno di fiducia». Ai suoi confratelli di sacerdozio egli consigliava di tendere senza reticenze alla perfezione dei consigli evangelici e chiedeva talvolta a certuni, che riteneva capaci, sacrifici assai piccoli in apparenza, ma grandi senza dubbio agli occhi di Dio e del suo servo. Un sacerdote, che divenne poi religioso al Sacro Cuore di Issodun, fece un ritiro sotto la direzione del curato d'Ars. Mentre finiva di confessarsi, ricordando le ore piacevoli trascorse coi confratelli giocando alle carte, pensava tra sé se era il caso di accusarsene. Per la tranquillità della sua coscienza, dopo un poco di titubanza, decise di rivelare anche questo particolare al servo di Dio, che immediatamente rispose: «Oh, non si deve fare! Padre, il gioco può essere un minor male quando si è in compagnia, ma non è necessario rimanere in compagnia. Padre, qualche volta si è chiamati a prestare servizio presso un confratello e dopo, quando si è reso il servizio, si parte». I consigli del santo erano stati dati in forma breve e recisa, senza spiegazione. Il penitente aveva difficoltà a decidersi, trovando questa austerità fuori dalle regole ordinarie e superiore alle sue forze. Ma levando la testa, il suo occhio si incontrò con il crocifisso ed allora comprese: «Ebbene, padre, prometto di non più giocare. Voi mi aiuterete con le vostre preghiere». «Questo basta», tagliò corto il servo di Dio e gli diede la soluzione. Appena uscito dal confessionale, il penitente si recò alla cappella di Santa Filomena ed, appoggiato all'altare, scrisse la sua decisione su un foglio di carta che aveva portato con sé. Quando più tardi i suoi antichi compagni di gioco lo invitarono ancora a divertirsi, egli seppe rispondere: «Assisterò un momento alla vostra partita, ma non giocherò. Vengo da Ars ed ho promesso a Don Vianney che non avrei più giocato». Nessuno trovò da ridire. In diverse circostanze ad altri preti ingiunse sacrifici anche più pesanti. Ad un parroco, che un giorno si lamentava con lui della indifferenza dei suoi parrocchiani e della sterilità del suo zelo, Don Vianney replicò con queste parole a prima vista molto dure, ma intelligibili a colui al quale erano rivolte: «Voi avete predicato, ma avete anche pregato? Avete digiunato? Vi siete dato la disciplina? Avete dormito sul pavimento? Fino a che non lo avrete fatto, non avrete il diritto di lamentarvi». Alle anime scrupolose indicava come rimedio la confidenza in Dio e l'obbedienza al confessore. A lui bastava una parola per portare la tranquillità nelle anime. I pusillanimi e i paurosi erano eccitati all'azione e al sacrificio. Venne a confessarsi ad Ars una giovane che per timore aveva declinato l'invito a lei fatto di fungere da madrina in un battesimo. A quell'epoca, con ragione, si aveva un'idea un po' più seria che non al presente di questa missione. Si era appena inginocchiata davanti a lui quando, senza che neppure si fosse accennato al battesimo, egli disse: «Non avete fatto bene rifiutando di essere madrina. Non si deve avere paura di fare il bene, anche quando costa. Un'altra volta siate più giudiziosa». La pratica dei sacramenti. Soprattutto, egli incoraggiava le anime pie alla frequenza ai sacramenti e diceva: non tutti coloro che si avvicinano all'altare sono dei santi, ma i santi saranno sempre tra coloro che si comunicano spesso. Ed in questo modo egli, all'epoca nella quale in Francia quasi non si parlava della comunione frequente, fu uno dei primi promotori di tale pratica. Anche in questo però non agiva a caso, ma con la direttiva della prudenza, esigendo quella seria preparazione che assicura il maggior profitto. E siccome né la comunione né la confessione possono supplire allo sforzo che noi dobbiamo fare contro noi medesimi, si dimostrò sempre assai severo con i peccatori abitudinari. Nelle anime già buone non poteva tollerare la tiepidezza e ad una donna di Lione domandava: «Dunque non vorrete convertirvi? Voi fate la comunione, ma non volete riformare nulla della vostra condotta e siete sempre collerica e violenta». La figlia di questa signora, raccontando il fatto, dice che la madre sua tremava, constatando come egli sapesse leggere nella sua anima, e quando osò levare verso di lui i suoi occhi bagnati di lacrime, le parve vedere il volto del Signore tutto di fuoco. Una mattina del 1845, Stefanina Poignard di Marcy, una borgata che sorge presso Villefranche-sur-Saône, aveva preso posto con altre compagne molto allegre in una vettura che partiva per Ars. Arrivate ad Ars, Stefanina, che era molto pia, entrò direttamente in chiesa dove il santo stava per incominciare la sua messa e dal momento della comunione si appressò alla balaustra. Il curato distribuì la comunione alle persone presenti, ma arrivato davanti alla giovane, dopo aver detto «Corpus Domini Nostri», si fermò, tenendo l'ostia al di sopra dell'abisside assolutamente immobile. Come descrivere l'angoscia della fanciulla alla quale Don Vianney, fin dal primo incontro, stava per dare una salutare lezione che sarebbe stata efficace per tutta la vita? Non sapendo che pensare, la giovane cominciò a recitare mentalmente gli atti di fede, di speranza e di carità. Ed appena ebbe finito, Don Vianney posò l'ostia sulla sua lingua e passò oltre. Appena la rivide, le diede anche la ragione del suo modo di agire. «Figlia mia, quando non si sono dette le preghiere del mattino e si è avuto un contegno non del tutto corretto lungo la strada, non si è troppo preparati a fare la Santa Comunione». Per ammettere alla comunione frequente, Don Vianney, oltre un certo grado di devozione, esigeva anche la consapevolezza dell'atto. Un giorno la signora Maduel di Lursy, persona pia ma poco istruita, prima di ricevere l'assoluzione, gli chiese il permesso di comunicarsi più volte la settimana. «Sì», rispose il santo, «ma per vostra penitenza andrete dal vostro parroco e gli domanderete che vi faccia conoscere quello che il catechismo insegna sulla comunione e sulle disposizioni con le quali si deve ricevere». La signora, piuttosto che andare a farsi istruire dal suo parroco, avrebbe anche rinunciato alla comunione frequente, ma quella era la sua penitenza e, nonostante la riluttanza che provava, dovette presentarsi al suo parroco. Questi, per non urtare troppo l'amor proprio della devota, si limitò a prestarle due libri di argomento spirituale, indicandole i capitoli che avrebbe dovuto leggere. Ella prese i volumi e li studiò. Poi, consegnandoli al parroco, disse: «Come sono contenta di aver avuto questa penitenza. In questi libri ho imparato molte cose, alle quali non pensavo neppure, e che mi saranno molto utili». Il medesimo parroco Bernard di Lursy raccontava questo fatto in difesa del servo di Dio contro coloro che lo accusavano di nulla capire della direzione delle anime e di essere sempre pronto a favorire le fantasie di una falsa devozione. Al contrario, Don Vianney moltiplicava i suoi incoraggiamenti verso coloro che già avevano una devozione sincera, compiacendosi nel suscitare sentimenti di devozione nelle anime ben disposte. Le sue lezioni sulla comunione frequente sono piene di ardenti appelli e di espressioni ammirabili. «Figli miei, tutti gli esseri della creazione hanno bisogno di nutrirsi per vivere, e per questo Dio ha fatto crescere gli alberi, quasi per preparare una mensa succulenta alle quali gli animali convengono per attingere ciascuno quel genere di nutrimento che gli sia confacente. Bisogna che anche l'anima si nutra, e dov'è il suo nutrimento? Figli miei, quando si trattava di preparare il cibo per l'anima, il Dio ha guardato alla creazione e, nulla trovando che fosse degno di sostenerla nel pellegrinaggio della vita, si piegò su se stesso e decise di dare se medesimo. Anima mia, quanto sei grande, non vi è che Dio che ti possa saziare. Il nutrimento dell'anima è il corpo ed il sangue di un Dio. Quale prezioso cibo! L'anima non può nutrirsi che di Dio, non vi è che Dio che le possa bastare. Non vi è che Dio che la possa colmare, non vi è che Dio che sia capace di estinguere la sua fame. Quanto sono felici le anime che si uniscono a Dio nella santa comunione. Nel cielo brilleranno come diamanti, perché Dio medesimo risplenderà in esse. O vita felice, nutrirsi di un Dio! O uomo, quanto sei grande, nutrito ed abbeverato dal corpo e del sangue di un Dio! Andate dunque alla comunione, figli miei. Nelle sue istruzioni al confessionale manteneva le medesime direttive. Un mattino del 1846 chiamava di tra la folla la reverenda madre Elisabetta Giraud, fondatrice delle Suore del Santo Rosario a Ponte Beauvoisin nell'Isère, e dopo averle detto qualche parola sulla carica molto pesante che ella aveva assunto, aggiunse: «Ma voi non vi comunicate abbastanza, comunicatevi più spesso. Adesso è l'ora della mia messa ed io voglio che abbiate la gioia di ricevere nel vostro cuore il Redentore». Ella confessava poi ad alcune amiche che fino allora era stata sempre molto pigra e che si comunicava solamente ogni 8 giorni, persuasa di fare già troppo. Così pure, dopo vari abboccamenti, decideva una persona di una parrocchia del Beaujolais a ricevere l'Eucaristia ogni 15 giorni. Ed essendo venuta varie volte ad Ars, sempre le consigliò di comunicarsi più spesso. Quando ella obiettava che le pratiche di pietà non erano molto osservate nella sua parrocchia e che non sapeva decidersi a questa abitudine che l'avrebbe resa singolare, il santo trovava subito una soluzione anche a questo problema e le diceva: «Voi avete delle amiche, ebbene, scegliete le migliori e conducetele a me, non sarete più sola a comunicarvi». Poco tempo dopo questa persona ritornava con 2 amiche e ad ognuna il curato diceva: «Venite ancora fra 6 mesi, ma in compagnia. Dovete guadagnarne 3 o 4 d'altre». Dopo 6 mesi arrivarono ad Ars 12 donne del Beaujolais e a tutte il santo suggeriva il segreto della comunione frequente. Il loro pastore, meravigliato di questa felice trasformazione, ne volle conoscere il motivo e quando gli fu riferita la parte che in questo miglioramento aveva avuto Don Vianney, volle recarsi ad Ars per ringraziare il suo fervente confratello. Quante altre anime e quante parrocchie hanno dovuto a Don Vianney il miglioramento. È ben poca cosa quello che noi sappiamo della sua influenza di confessore e di direttore di anime. Il resto, ignorato dagli uomini, sarà rivelato direttamente da Dio. Don Vianney, ha detto la contessa di Garetz, si è visto costretto a confessare che solamente nell'ultimo giudizio si conoscerà il bene operato dal suo ministero. E si comprende quindi che il demonio, indispettito di tanto profitto e di tanta lotta alla sua opera di perdita delle anime, abbia potuto gridare per voce di un'ossessa: «Quanto mi fai soffrire! Se sulla terra ci fossero 3 persone come te, il mio regno sarebbe distrutto».